Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 29. Silenzi. Che cazzo è successo? Diossido si aspettava quella telefonata. Sperava solo di essere abbastanza bravo a dissimulare il divertimento che gli aveva provocato la fuga di Drago, degna delle comiche degli anni venti, ma non era sicuro di riuscirci. «Cosa volevano da me?» urlò ancora il cellulare. «Niente, solo quello che fa ogni dio degno di questo nome». Diossido diede a Drago un attimo per capire, ma la raffica di imprecazioni dall'altra parte lasciava pochi dubbi sulla volontà del meticoloso di giocare agli indovinelli. «Volevano che tu le riportassi indietro», disse, sperando che non si udisse quel sorriso che non riusciva a ricacciare indietro. Drago si era azzittito. Si udivano cicale frinire attraverso il silenzio. «Sono rimasti delusi quando ti hanno visto scappare». «Io non sono scappato!» ruggì piagnucolando. «Non voglio contatti. Ero lì solo per...» Le parole divennero un mormorio confuso. Poi Drago riprese il controllo. «E poi, cosa volevano che riportassi indietro? Un mucchietto di cenere bagnata? Sono tutti matti?» Camillo esitava. Sapeva che, a quel punto, qualunque cosa avesse detto sarebbe stata quantomeno inappropriata. Le cicale ossessive erano ancora lì. Sviolinavano il loro richiamo sotto il cielo abbacinante. Poi, all'unisono, tacquero. Il meticoloso aveva chiuso la comunicazione e a Diossido era un tratto passata la voglia di sorridere. Mirko, appoggiato al parapetto arrugginito e incrostato di salsedine, guardava il mare infrangersi spumeggiando sugli scogli sottostanti. Non era più la sconfinata distesa che talvolta lo aveva intimorito per l'infinita incognita dell'orizzonte. Il suo mare aveva ora una direzione ben precisa. Dopo aver calpestato tutti quei chilometri di terra, il tempo e il subconscio lo avevano premiato. La sua meta ultima si era manifestata in sogno, uno di quei sogni caldi di cui ancora senti la nostalgia appena se ne scivola via. L'aveva sognata a sorpresa. Non ci pensava più da mesi. In realtà non ci aveva mai pensato. Eppure la voleva vedere. Come nel sogno la voleva avere. Sulla punta estrema dello stivale, in riva al mare, c'era musica e gente che ballava. Era una notte di luna e di stelle. Nell'abituale stile barbone, Riviera gironzolava tra la folla, distribuendo sorrisi e unendosi a tratti alle danze. Un ibrido di ritmi sudamericani e melodie arabe lo accompagnò spegnendosi in lontananza mentre si avviava verso le luci dei riflettori che tagliavano il cielo a ovest, sul lungomare. Prese un ritaglio di giornale dallo zaino. L'articolo riguardava la recente inaugurazione, lì dove da tempo immemore avrebbe dovuto essere stato costruito un ponte, di un tunnel sottomarino. Il lungo budello era stato realizzato in massima parte con materiali plastici trasparenti. Un sistema di ammortizzatori idraulici avrebbe assorbito eventuali scosse telluriche in modo da rendere innocuo anche un forte terremoto. Si scrollò di dosso quel pensiero. Seguì i cartelli luminosi che indicavano l'ingresso pedonale, poco più di 3 chilometri per scarpinare attraverso quel lembo di mare. Dall'esterno non sembrava niente più di un ingresso di una qualunque metropolitana, scale mobili e luci al neon. All'interno, coloratissimi murales dipinti da bambini delle scuole locali abbellivano le pareti dei lunghi corridoi. Era tutto un fiorire di pesci e persone che nuotavano tra gli alberi. Quando la scala mobile terminò nella cupola trasparente da dove iniziava il tunnel, le cose cambiarono. La costruzione era imponente, un'arcata alta quanto una casa di 6 piani, illuminata giorno da luci che scintillavano come diamanti incastonati nel blu notturno. Uno schermo televisivo circolare correva tutto intorno alle pareti, riproduceva immagini dell'intera lunghezza del tunnel, dall'ingresso fino all'uscita dalla parte opposta. Un sentiero di LED luminosi che si snodava nel pavimento guidava i visitatori all'ingresso della galleria vera e propria, larga a sufficienza per contenere una parata militare, se ancora fossero esistite. Si incamminò guardandosi intorno affascinato. La lontana volta dello scavo lasciava intravedere le cieche acque notturne. Si ripromise di tornarci di giorno per vedere che effetto faceva con il sole. La struttura del tunnel che collegava il continente all'isola era costituita da sezioni lunghe 50 passi, unite tra loro da giunzioni fatte di un metallo dall'aspetto poroso. Gli faceva venire in mente un bruco addormentato. Sfiorò con le dita le pareti trasparenti. Erano scivolose al tatto e si increspavano, lievi. La superficie sembrava liquida, quasi unta, ma non ne restava alcuna traccia sui polpastrelli. La pista pedonale affiancava quella ciclabile. Accanto a queste, ma separate da una barriera dello stesso materiale viscido e trasparente, correvano le corsie per gli autoveicoli. C'erano filari di alberi e siepi e l'aria odorava di verde. Stava camminando da almeno 15 minuti. Dietro di sé nient'altro che un bianco serpente traslucido circondato dal blu. Una coppietta lo superò a passo di jogging salutandolo. Lui in risposta gli sorrise lanciandogli un bacio. In vari punti lungo il percorso alcune lampade all'esterno del tunnel rischiaravano le acque circostanti. Poteva così scorgere numerosi pesci curiosi che lo guardavano come se fosse lui, ora, quello nell'acquario. Una gioia sottile lo percorse. Il futuro luminoso che fin da bambino si era immaginato era finalmente giunto e con ogni probabilità il meglio era lì davanti, appena oltre il mare. Avrebbe pur trovato un porto, un'imbarcazione, una zattera. L'uomo delle acque salmastre affrettò il passo. Era sera tardi e i grilli avevano preso il posto delle cicale. Un falò illuminava i volti di quello che era rimasto della compagnia della Resi. Seduti a terra formavano un cerchio con 2 posti vuoti per gli amici assenti. «Era lui, vi dico! Mi ha toccato!» Il Marras indicava il gomito come se quella vista bastasse a convincere gli altri. «L'ho visto da vicino!» «Ti sei sbagliato, lui non scapperebbe mai!» «Però ci assomigliava, ecco perché...» Il cappuccio candido rifletteva le fiamme sul volto e sui capelli scarlatti della rossa. Pareva una torcia umana in procinto di infiammarsi. «Ci manca tanto a tutti!» La nera lì accanto giocherellava con alcuni rametti. Ne tirò una manciata nel fuoco. «Ti ha parlato? Ha detto qualcosa?» Ma il Marra scosse la testa. «Quando ti ho sentito gridare e l'ho visto lì vicino a te, credevo che fosse lui», disse Acqua di Cane, fissando le fiamme. «Ma ha ragione Anna, io lo volevo vedere, quindi l'ho visto. È andata così». «È andata così anche per te», disse la nera rivolta al Marra. «E anche per me. Non è la prima volta che vedo quello che voglio vedere». Paolo disegnava cerchi sulla cenere con un bastoncino. «Non era lui», affermò, «e io ci vedo bene». «Poteva riportarli indietro». Le parole del Marra sembrarono gelare le fiamme. Si accovacciò sui talloni, incrociando le braccia sullo sterno carenato, e girò la testa per guardare le nuvole bianche azzurre di luna. «Non c'è inferno, non c'è paradiso. Da dove dovrebbe riportarli?» domandò Billy. «Forse è stato un presagio», disse la rossa. E agli altri che la fissarono interdetti spiegò: «Forse vuol dire che lo rivedremo presto. Forse abbiamo già iniziato a vederlo prima che arrivi». Nessuno rispose a tutti quei «forse». Il silenzio si allargò fra loro. Billy cominciò a tamburellare su un ciocco di legno. Aveva sempre con sé le bacchette per batteria di nuova produzione, con suoni campionati e amplificati. Riproducevano il suono dei tamburi su qualunque superficie venissero percossi. I sensori di movimento reagivano allo schema della batteria virtuale, cambiando tamburo a seconda dello spostamento delle bacchette. Il Marra tese le orecchie, dondolò la testa. Poi dalla bocca chiusa gli uscirono alcune note prolungate. Le fece vibrare modulandole con la gola. La nera iniziò a canticchiare. Love, love, love. Era solo un flebile mormorio. Love, love, love. Il sussurro si perdeva nel buio. Love, love, love. A poco la voce, il ritmo, la luna, i bagliori del falò e una lieve trance tribale li avvolsero. Poi la rossa si unì alla amica e intrecciò un controcanto alla melodia. A tout le monde, love, love, love. A tous mes amis, love, love, love. Je vous aime, love, love, love. Je dois partir. Con quello che avevano sotto mano tutti si unirono al concerto, chi soffiando nel collo di una bottiglia vuota, chi improvvisando nacchere con frammenti di dura corteccia, chi cantando l'una o l'altra melodia. Si persero nella musica, si unirono alla musica, li aveva presi in mano e alleggeriti del loro fardello, riuscivano persino a sorridere, nonostante gli ultimi strani e tristi giorni. Conclusero la canzone in un crescendo di risate e applausi.